Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Seguimos en esta Otra Oreja Intergaláctica con música de Nápoles. El grupo 99 POS, este grupo italiano de hip hop, reggae, rock, haciéndonos tres temas: A la Antimafia, Fallendo la Historia y América. 99 POS en la Otra Oreja. Yeah.

mystery. We're making history. It is no mystery. We're winning victory. It is no mystery. We're making history. It is no mystery. We're winning victory. It is no mystery. We're making history. It is no mystery. We're winning victory. It is no mystery. We're making history. It is no mystery. We're winning victory. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Estás escuchando En la Otra Oreja. Frate, perché chi lo come me o come te? In America sono nero, chicano, magari sono più bianco, ma si chiamano Bill Gates. No, no, non si chiamano, no, no, non esistono, perché nel tuo paese liberale la ricchezza complessiva è poco più della metà della popolazione, si fonda sopra il fatto che questo è destinato a scomparire, a morire di fame, di stenti, di droga, di tempo, di bande, di continua espansione, di malattie curabili per mancanza di un lavoro, a morire in prigione. Sì, in prigione, perché sai, sono più bambini neri in prigione di quelli nelle scuole, che scuole, che dire nelle scuole americane, se non che sono loro nello stare della competizione, il posto di andare a diffidare, a badare a te stesso, e basta considerare il prossimo un nemico, un pericolo, comunque un ostacolo che devi superare. Non c'è posto per il taglio di essere il migliore. La barbarie, è la barbarie, è la barbarie, è la barbarie, è la barbarie. America, America, America, Stati Uniti dalla falsità, America. dalla falsità. America, America, Stati Uniti dalla falsità. America, America, Stati Uniti senza libertà. America, America, Stati Uniti dalla falsità. America, America, Stati Uniti dalla falsità. America, America, Stati Uniti dalla falsità. America, America, Stati Uniti senza libertà. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y por la otra oreja presentamos de Uruguay el grupo Agarrate Catalina con un tema muy violento de un video increíble. Recomendamos verlo. La violencia. Agarrate Catalina por la otra oreja. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en esta otra orejita presentada por Zoe, volvemos a escuchar Los Patitas de Perro, este grupo de Puebla, de México, cantando sobre la equidad de género. La niña futbolista, por la otra orejita. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Se fue a inscribir a la selección, pero le dijeron que estaba mal. Que una niña no puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón. Pero cómo carambas no puede ser, tienen miedo a jugar con un ángel. Hace tiempo en la ciudad. Especial, apasionada por el Por la otra oreja. Y nos despedimos, como casi siempre, con una versión de Hasta Siempre de Carlos Puebla. En este caso, la Albinu, grupo romano, haciéndonos Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. En cualquier lugar del mundo mostramos las frases de todos nuestros grandes combatientes que representan la voluntad del pueblo. Patria o muerte, venceremos. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, a que se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, a que se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Tu amore revolucionario. De Combosa nueva impresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario, a que se quedara clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre comandante, a que se quedara clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.